Sentiva, mi amore, amore fra i cori.

Questa quella per me pari solo a andare tre intorno, intorno mi vedo del mio cuore l'impero non c'è la veglia dura che ad altra beltà la costoro apparenza è quel dono di che il fato nel filo alla vita so di questa mi torna gradita forse un'altra forza domanda sarà un'altra forse un'altra domanda sarà la costanza tiranna del cuore le testiamo quel morbo crudele so chi vuole si servi fedele non morno se non v'è libertà dei mariti il caroso amore degli amanti le smania è carino a codargo c'è troppo di sfido sempre fugge una qualche beltà se mi fugge una qualche beltà Thank you.

tanto il cuore, ormai non sentasi felice appieno, chi in su quel seno non gli va amore. La donna è volpire, fa più male vento, o souffle du printemps.

battendo ardente spira oggi l'evento dell'amore a quel cuore che l'ombra, oh mio, mi gioco.